as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui al Pane e Rose. Oggi prima puntata di una serie di puntate che per forza di cose saranno dedicate al congresso della CGIL. Non me ne vogliono i compagni dei sindacati di base, ma quando c'è il congresso della CGIL nei luoghi di lavoro in tutta Italia, in tutte le categorie, è un momento importante. Ci sono migliaia di assemblee che vengono svolte e in queste assemblee si decide la linea politica che la CGIL dovrà avere nei prossimi 4 anni. Si nomineranno, si voteranno i dirigenti sia confederali che di categoria, fino a eleggere il massimo segretario generale. 4 anni fa fu eletto Landini, poi ne parleremo anche durante l'intervista di questo. È un momento fondamentale per i lavoratori italiani. Uno la può vedere come vuole, ma saranno chiamati a votare milioni di iscritti della CGIL. La CGIL ha milioni di iscritti. E dunque è un momento che non accade in nessun'altra organizzazione, nessun altro partito, nessuna associazione in Italia a fare una cosa del genere. Ed è un'importanza veramente notevole. Nel congresso, ormai sono tanti anni che in CGIL in realtà ci sono aree sindacali, e le aree sindacali possono sia proporre degli emendamenti, ma molto spesso, come accade negli ultimi anni, proporre un documento alternativo e un gruppo dirigenti alternativo a quello della maggioranza. Anche questa volta è capitato, le aree di opposizione che esistono all'interno della CGIL, parliamo di Conquistiamo Tutto, Legione di Marzo e altre aree sempre della CGIL, si sono incontrate a Livorno il 29 giugno e hanno elaborato un documento, hanno presentato un documento, in realtà è stato elaborato già da mesi, ma è stato presentato, e qui insomma Eliana, nell'intervista che abbiamo fatto, spiegherà le questioni fondamentali. Chiaramente è un'intervista molto breve di Eliana, poi ne faremo altri in futuro. Lei è la coordinatrice di questa area, anche di questo documento alternativo, le radici del sindacato, così è stato così chiamato. Io penso che sia un titolo azzeccatissimo, e lei ci spiegherà insomma i punti fondamentali di questo documento. Adesso un bellissimo pezzo e poi sentiamo Eliana Como che ci spiegherà insomma questo documento e le ragioni che hanno portato una parte dei dirigenti della CGIL a aderire a questo documento e a presentare questo documento. Poi ci sentiamo per le conclusioni. Fortunate. Ciao a tutte e a tutti, scusatemi tanto per la voce, non sto messa tanto bene e quindi perdonatemi, ma sono comunque carica a mille perché l'Assemblea Nazionale a Livorno è andata benissimo, come volevamo, abbiamo fatto il botto e quindi partiamo con grande carica, grande entusiasmo e, come ho detto anche a Livorno, con facciamoci, diciamo, prendiamoci cura di questa che è una delle nostre più grandi forze, cioè la nostra militanza, la nostra convinzione, la passione anche che mettiamo nel voler in qualche modo prendere la strada più difficile, che è quella della presentazione di un documento alternativo, ma anche perché siamo convinti delle nostre ragioni e che ne valga davvero la pena. Quindi, diciamo, io sono molto contenta dell'assemblea di Livorno, è stata una bellissima assemblea, è il modo migliore per iniziare questo congresso. E tanti in queste settimane dentro la CGIL ci hanno detto: ma perché presentate il documento alternativo, non facciamoci vedere divisi dai lavoratori, piuttosto avreste potuto presentare un emendamento, eccetera eccetera, no? Se avessimo presentato un emendamento sarebbe stato soltanto per opportunismo. E le ragioni che ci portano a un documento alternativo sono delle ragioni di fondo. Noi vogliamo che il sindacato, la CGIL, ritorni al suo ruolo originario, alle sue radici, appunto, come dice il titolo del documento, nella convinzione che senza lotte non c'è futuro e che quindi la CGIL debba ritrovare un ruolo, il suo ruolo originario, che è quello appunto di un sindacato antagonista, conflittuale, di classe, non avendo paura di pronunciare la parola sciopero, la parola conflitto, ma appunto, diciamo, superando questa sorta di timore autoreferenziale che a volte sembra che abbiamo nei confronti di un invece sano antagonismo contro i governi, soprattutto in particolare contro questo governo, che è espressione esplicita dell'austerità europea e della grande capitale, della grande finanza, e anche diciamo nei confronti di questa Confindustria che insomma più feroce che mai. Noi pensiamo che in questo congresso è proprio ora che il gruppo dirigente della CGIL faccia una forte autocritica, metta in discussione le scelte operate in questi anni, in particolare in materia contrattuale e salariale, iniziando finalmente a contrapporsi alle politiche del governo Draghi, appunto all'arroganza di Confindustria. Anche nel documento della maggioranza si dice, per capirci, che è ora di alzare i salari, però il punto è capire, va bene, ma allora come si alzano i salari? Siamo disposti, come noi pensiamo sia necessario, a mettere in discussione l'IPCA, a cancellare il patto per la fabbrica, il patto Brunetta nel pubblico impiego e finalmente a chiedere nelle piattaforme rivendicative dei contratti nazionali e dei contratti aziendali, anche se separate, se sarà necessario, veri aumenti contrattuali? Perché se invece diciamo bisogna alzare i salari, ma poi quello che chiediamo, come sta facendo in questi giorni dai giornali il segretario della CGIL, chiediamo un po' di detassazione, insomma, se va bene finiremo per ripagarla di nuovo noi con altri tagli allo Stato sociale. Per questo il centro del nostro documento è in realtà diciamo esattamente non soltanto le singole proposte che noi facciamo, ma soprattutto un metodo, cioè bisogna rompere con la concertazione, che in realtà concertazione non è, perché i governi in questi anni a malapena ci hanno informato delle scelte che venivano prese, e bisogna rompere con l'unità di vertice, con CISL e UIL a tutti i costi, perché la maggior parte delle volte è un freno alle lotte, al rapporto con i movimenti, alla capacità di creare mobilitazione nel paese. È stato un freno il 16 dicembre perché ci ha portato a uno sciopero generale in ritardo a Natale fuori tempo massimo, è stato un freno anche in questi primi sei mesi del 2022, perché a quello sciopero avremmo dovuto dare continuità da subito, perché a partire anche da febbraio, dallo scoppio della guerra, dall'impennata inflazionistica che è stata resa più drammatica dalla guerra, le ragioni che ci hanno portato a scioperare a dicembre sono ancora più attuali, ancora più urgenti. Invece non c'è stata ancora continuità allo sciopero del 16 dicembre, l'unica continuità che c'è stata la mobilitazione in piazza il 18 giugno a Roma, ma solo con i delegati e con le delegate. Noi abbiamo bisogno di più, abbiamo bisogno di coinvolgere i lavoratori e le lavoratrici, e spesso, troppo spesso in questi anni la l'unità di con CISL UIL è stata un freno alle lotte. Ora scopriamo che è la CISL che ci dice no, l'unità sindacale non è possibile, e quindi in qualche modo ci ritroviamo che a doverci inventare una posizione. Io credo che deve essere invece la CGIL a dire con molta chiarezza che no, l'unità con la CISL non è praticabile, perché loro si chiamano soci ai loro e non compagni, nei loro congressi invitano Salvini e la Meloni, li applaudono, non si vergognano di dire che i padroni sono i loro alleati. Ci diranno in questo congresso che noi siamo, come ci dicono sempre, che siamo dei sognatori, che chiediamo l'impossibile. Io non credo che noi chiediamo l'impossibile, io credo che noi chiediamo quello che una settimana fa i lavoratori dei trasporti nel Regno Unito hanno fatto, cioè bloccare il paese, mobilitarsi, scioperare a oltranza contro il caro vita, licenziamento e tagli allo stato sociale. Non è impossibile, e devo dire, tra l'altro, credo che nel corso dell'ultimo anno, dal 9 luglio del 2021, in qualche modo diciamo la stessa vertenza di GKN, che per noi è una vertenza assolutamente esemplare, abbia in qualche modo indicato una strada, la strada che noi anche proponiamo, la strada della lotta, ma anche una strada che in qualche modo è un metodo, cioè il metodo del collettivo di fabbrica, del rapporto assembleare quotidiano con l'assemblea dei lavoratori, e fuori dalla fabbrica della costruzione di legami di solidarietà e di convergenza con i movimenti, per far stare dentro tutto, come loro hanno fatto dietro la parola Insorgiamo, la crisi ambientale e climatica, il movimento per la pace, il movimento degli studenti e delle studentesse, cioè tutto quello, tutti coloro che lottano per un'ingiustizia. Questo è quello che secondo noi, banalmente mi viene da dire, semplicemente dovrebbe fare la CGIL. Anche per questo ci chiamiamo le radici del sindacato, perché pensiamo che chi 4 anni fa davvero aveva creduto, tanti anche onestamente va detto, che cambiare il segretario generale avrebbe permesso di cambiare la linea della CGIL, ci sarebbe stata una CGIL più conflittuale, più legata ai movimenti, eccetera, era destinato a sbagliare, perché un albero non lo curi dalle foglie, lo curi dalle radici. Quindi quello che noi dobbiamo cambiare sta alle radici, nel rapporto che i delegati e le delegate hanno con i lavoratori e con le lavoratrici, nel dare e valorizzare i delegati, soprattutto quelli più autonomi, quelli più combattivi, quelli che organizzano le lotte, quelli che hanno rapporti con i movimenti. Questo è quello che noi proviamo a dire in questo documento, e come ho detto a Livorno, e sono contenta che sia detonato da Livorno con una grandissima potenza, con una grandissima motivazione, è appunto che noi insomma dobbiamo provare in questo congresso a parlare con i lavoratori e con le lavoratrici, con i tanti delegati e delegate anche della maggioranza, non importa, anzi a maggior ragione con i delegati della maggioranza, che si sentono magari delusi della linea della CGIL, anche se magari non hanno il coraggio di schierarsi. Io penso che invece noi dobbiamo provare a portare un cambiamento dentro questa nostra organizzazione, che non è semplicemente per forza di voler criticare il gruppo dirigente della CGIL, anche questo, perché ci sono state scelte sbagliate, vanno messe in discussione, vanno rifatte, bisogna cambiare linea, questo noi lo diciamo apertamente, ma soprattutto perché noi vogliamo spingere questa organizzazione a fare di più e meglio. Con questo, anche con questo spirito, nonostante la voce un po' acciaccata dal mal di gola e dalla tosse, ma buon congresso a tutte e a tutti. Grazie, ciao, Templacido. tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra. Abbiamo ascoltato Eliana Como, ci ha presentato il documento alternativo che sarà presentato in tutte le assemblee dei luoghi di lavoro in Italia, dove è presente la CGIL chiaramente, e sarà votato insieme al documento di maggioranza, e ci sarà possibilità per i lavoratori iscritti alla CGIL di scegliere quale documento ritiene più vicino alle proprie idee. Ora, Eliana ha detto delle cose interessanti, ha chiaramente spiegato la necessità di questo documento alternativo. Io non posso negare che sono anni che faccio parte anch'io di un'area di opposizione all'interno della CGIL, in questo caso del giornale di marzo, e anch'io ho aderito a questo documento alternativo e penso che ci sia veramente una necessità come lavoratore, ma a prescindere dalle mie posizioni ideologiche, questi ultimi 30 anni sono la dimostrazione del fallimento della linea della CGIL. Sono 30 anni che la CGIL fondamentalmente sta arretrando, e lo si vede con la questione del salario. E 30 anni non è una data così presa a caso, 30 anni sono da quando abbiamo perso la scala mobile. Sono 30 anni che arretriamo. Salario e diritti, ma il salario è indicativo. È chiaro che nel momento in cui si perdono soldi si perdono anche i diritti, perché non si ha la forza di andare avanti e di combattere. Questa è la dimostrazione che la CGIL non può continuare ad andare avanti su questa linea, e se non c'è una svolta radicale, quella che chiede il secondo documento, che si basa soprattutto sul conflitto, e ha fatto bene Eliana a spiegare che la GKN è un modello in cui non ci si rassegna alla chiusura, si lotta e si vince. GKN è un modello da seguire, è un modello in cui i lavoratori hanno preso coscienza, sono riusciti a coinvolgere la collettività, sono riusciti a coinvolgere anche il sindacato, sono riusciti a coinvolgere tutti, hanno fatto diventare l'avvertenza della GKN un'avvertenza nazionale, ma hanno fatto capire che non avrebbero mai mollato, hanno occupato e hanno ottenuto e hanno vinto, la loro battaglia l'hanno vinta. Ma io voglio anche parlare di quello che è successo nel marzo durante il Covid, la dimostrazione di come il conflitto si è riuscito a far chiudere le fabbriche in Italia, perché proprio grazie alle lotte dei lavoratori nelle fabbriche siamo riusciti a fare qualcosa che non è successo in nessun'altra parte d'Europa. C'è stato Bukin, che è un professore universitario, ha dovuto intervistare i compagni che hanno fatto le lotte nel mese di marzo, perché in Francia questo non è accaduto, e lui è ancora oggi è scioccato, ha scritto un libro su quello che è successo in Italia durante il Covid. E dunque la battaglia, la lotta, il conflitto, ma possiamo parlare anche di quello che hanno fatto i Sicobas nel settore della logistica, o di altri lavoratori nel settore come l'UPS, la filtre dell'UPS di Milano. Cioè sono battaglie e il conflitto che fondamentalmente, quando non si ha paura del conflitto, quando si ha fiducia nei lavoratori e non si cerca in tutti i modi la mediazione al ribasso, i lavoratori riescono a vincere. E questo ha portato i lavoratori, i dirigenti sindacali che credono che si possa avere una CGL conflittuale che vince le battaglie, che inverte il ciclo, che riesce a cambiare i rapporti di forza in questo paese, a presentare questo documento e andare dai lavoratori a dirgli: c'è anche questa CGL, c'è questa possibilità, si può cambiare, ci sono degli esempi che sono stati fondamentali per noi, ma devono diventare degli esempi che la CGL deve prendere, altrimenti si rischia di scomparire, altrimenti si rischia di diventare sempre più un sindacato di servizi e poi si va verso una cislizzazione. La CISL è quello che è, lo è diventato perché non ha più creduto nei lavoratori. Eliana fa l'esempio della CISL che si chiamano soci, non compagni, parlano dei padroni come degli alleati. È normale, quando sei alla frutta e non credi più nella forza del conflitto, non ti rimane che diventare un sindacato di servizi e metterti d'accordo con i padroni. La CGL è una svolta, sono 30 anni che arretriamo, e o prende coscienza di sé e cambia completamente il corso e la linea politica, oppure è destinata a una cislizzazione, e questo non è accettabile per noi, perché i lavoratori ne avrebbero tanto da perdere. Ecco perché è importante fare questo congresso, è importante che questo documento vada in tutti i luoghi di lavoro e venga votato dai lavoratori per poter cambiare le cose. Io vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata.